Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Pietro Lacorte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Questo per dire che noi ci siamo, è già attivo il nostro numero verde 800 24 0024. Andiamo subito al nostro sommario. Terme, la clinica della natura. Dipendenza da fumo, dipende dai geni? Informa dopo il parto. Per chi di voi le ha già provate, per chi sta accarezzando l'idea, oggi cari amici ci occupiamo di terme, una medicina antica. Il termalismo viene da più parti definito proprio come la medicina tradizionale dell'Occidente, una medicina che piace sempre di più alla scienza. Allora chiamateci subito al nostro numero verde 800 24 0024. Abbiamo molte cose da raccontarci, tanti trattamenti di cui parlare, per individuare con l'aiuto dei nostri esperti quello più adatto al caso nostro. Dolori articolari, riabilitazione, malattie della pelle, malattie dell'apparato respiratorio, ma anche, cari amici, bellezza e benessere. Vi presento gli ospiti di oggi. In linea con noi abbiamo il professor Umberto Solimene. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore della scuola di specializzazione di idrologia medica e medicina termale dell'Università di Milano. È autore di un libro molto bello che vi consiglio, si intitola Medicina termale Red Edizioni. Lei professore ci farà un po' da cicerone, ci spiegherà i meccanismi d'azione delle acque termali, le loro differenze, i modi di utilizzarli, ma non solo, per oggi parleremo anche di fanghi e di sabbiature. Professore, quindi un programma molto ricco. Bene. È pronto? Sono pronto in questo viaggio, come le ha detto, attraverso la medicina tradizionale dell'Occidente, che in effetti è stato un termine che ho coniato ormai molti anni fa, proprio perché ritengo che è un capitale non solo della nostra cultura scientifica e della cultura pratica, ma anche un capitale e una risorsa importante per il nostro paese. Alle terme quindi per stare bene, professore, ma anche per prevenire, per curare, in una parola per riacquistare benessere. In linea con me alle tre esperti a cui possiamo rivolgerci per avere indicazioni precise proprio per il nostro caso. Saluto il professor Allegra, buongiorno professore. È caduto, ma lo recuperiamo, non è che sarà già andato alle terme. In linea abbiamo anche il professor Walter Albisetti, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ortopedico e professore associato all'Università degli Studi di Milano, e il professor Albisetti è a disposizione di chi si sente un po' acciaccato, di chi dopo un intervento vuole tornare in gamba, in spalla, in caviglia, perché professor Albisetti parleremo anche e soprattutto, ma non solo, di riabilitazione. In acqua sembra più facile. È più efficace, così? Sì, bisogna anche superare l'associazione terme-artrosi, che è molto riduttiva. Infatti da diversi anni le terme si sono dotate di ottime, moderne strutture riabilitative. Cioè, qual è stato lo scopo? Lo scopo è stato quello di associare la riabilitazione in acqua e ancora più di sfruttare la proprietà dell'acqua stessa, cioè dell'acqua termale. In poche parole, l'associazione riabilitazione in acqua con le proprietà dell'acqua e quindi il calore, il galleggiamento, la pressione eccetera, e lo stesso contenuto dell'acqua, non so, le solfure, poi il professor Solimene saprà dire più di me, le bromo salzo iodiche eccetera eccetera, possono essere associate a diversi trattamenti, e questo può portare non solo una sensazione di benessere, ma un'attività terapeutica. Insomma, funziona. Mentre per il benessere, la salute e la bellezza della pelle, oggi possiamo contare sul professor Girolomoni, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Direttore della scuola di specializzazioni in dermatologia e venereologia dell'Università di Verona. Professor Girolomoni, ho detto bellezza, forse ho esagerato, perché non basta immergersi sicuramente in una piscina termale per trasformarsi da strega nocciola in Biancaneve, ma sicuramente da un soggiorno termale la pelle torna in qualche modo più riposata, è così? Certo. Poi esistono alcune evidenze, diciamo, che sia anche importante per proprio la terapia di alcune situazioni patologiche, ecco. Soprattutto le malattie infiammatorie croniche possono in qualche modo giovarsi di certi trattamenti termali. E siamo riusciti a ripescare il professor Allegra, direttore del Dipartimento Toracopolmonare dell'Università di Milano. Professor Allegra, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma non è colpa mia. No, avevo pensato che avesse fatto un saltino alle terme, ma a proposito di terme, ci faccia un po' capire per bene qual è il suo interlocutore ideale oggi in trasmissione, in cui vogliamo proprio aiutare i nostri ascoltatori a scegliere il trattamento che fa al caso loro? Tutti i miei colleghi, per cominciare, il professor Solimena in particolare, e mi riferisco a quanto è stato appena detto, che un incontro così segnala la utilità di un'associazione tra le proprietà delle acque termali, per esempio solforate, sì, e le proprietà dell'acqua in quanto acqua. E io ricordo che è l'acqua che fa gli cosiddetti aerosol umidi. E allora l'acqua diventa veicolo e contemporaneamente, se l'acqua è medicata spontaneamente dalla natura, diventa anche farmaco. Allora, pensate di avere qualche disturbo che potrebbe trovare giovamento dalle cure termali, volete informazioni a riguardo, vi interessa anche sapere cose pratiche, no? Ad esempio se il trattamento di cui avete bisogno in toto o in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, siete abitué delle terme, volete raccontarci perché sono diventate un appuntamento importante per il vostro benessere, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. La predisposizione all'abitudine di fumare, il numero di sigarette giornaliere e la difficoltà a smettere potrebbero dipendere da variabili genetiche individuali. Parliamo di fumo e ne parliamo prendendo spunto dai risultati di un lavoro scientifico pubblicato su Nature Genetics, che deriva proprio, è un grande lavorone, perché deriva da una meta-analisi di studi condotti su decine di migliaia di individui, proprio allo scopo di identificare variabili genetiche associate al fumo di sigaretta. Ne parliamo oggi col professor Piermannuccio Mannucci, direttore del Dipartimento di Medicina dell'Ospedale Cagrande Policlinico di Milano, che ha partecipato allo studio. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Professore, la relazione tra noi e il fumo è condizionata anche dai geni, ma ho bisogno di lei perché, professore, detta così, questa frase potrebbe suonare, diventare una scusa, una ragione per non smettere o spiegare la difficoltà a farlo. In realtà la situazione è più complessa. Professore. Sì, la situazione è, come dice lei, enormemente più complessa. Quello che posso dire è che qui è stato fatto per la prima volta, veramente su un numero enorme di casi, uno studio proprio dell'intero genoma umano, i cosiddetti Genome-Wide Association Studies. E sono stati in questa maniera identificati dei geni, o perlomeno dei siti genetici, associati a tre elementi principali legati al fumo. Il primo è quello proprio della capacità o meno di fumare e di fumare tanto. Un altro è quello di iniziare presto, sì, quindi della precocità del fumo. Ed infine, note positive, la capacità di smettere di fumare, che naturalmente anche questa è la loro importanza. E sono state individuate, come dico, dei geni che sono associati con queste abitudini di vita. Naturalmente però non è che uno voglia promuovere in questa maniera sottoporsi a dei test genetici per sapere se si riuscirà meno a smettere di fumare. Uno deve cercare di non fumare e di smettere di fumare in ogni caso. Le implicazioni pratiche di questa ricerca sono, secondo me, altre. Quali sono, professore? Ma vede, proprio i geni, ogni gene che è legato al fumo è legato a sua volta a una proteina, e una proteina indica una base molecolare del problema dell'abitudine a fumare. Quindi una volta che io so che quella determinata gene, quindi quella determinata proteina, è legata al fumo in senso positivo o negativo, posso anche pensare come intervenire su questa proteina con dei farmaci o comunque con dei mezzi magari anche non farmacologici, quindi per esempio trovare un modo per evitare che uno abbia la predisposizione a fumare, ma soprattutto per aiutare le persone a fumare in maniera non tossica, come invece attualmente avviene, e per facilitare la cosa. Però ripeto, tutto questo prescinde dal fatto che non si vuole in nessuna maniera dire che bisogna fare questi test genetici. Invece quello che bisogna dire, non lo dico così con una specie di forza dogmatica che invece bisogna cercare di non fumare, perché non c'è il minimo dubbio che il fumo faccia male. Quindi queste ricerche non vorrei che possano essere anche ingannatorie, che uno dica vabbè, io non ci posso fare niente perché ho una determinazione genetica. Ecco, e questo l'abbiamo sottolineato, io la ringrazio professore perché ci ha dato veramente ha sottolineato bene il problema. Intanto la ringrazio, complimenti e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Pronto soccorso. Natura al 100% a servizio del nostro benessere e della nostra salute. Oggi parliamo di terme, tanti trattamenti a disposizione, tutte a base di elementi assolutamente naturali. Per questo molti definiscono le terme proprio la clinica della natura. Iniziamo dalle acque, professor Solimene. Vogliamo fare una panoramica molto semplice e chiara, raggruppare le acque in famiglie, dire quali sono le indicazioni, quali disturbi possono curare. Io le metterei a disposizione il corpo umano e lo stivale. Certo. Facciamo un po' degli abbinamenti. Allora, è abbastanza complesso sintetizzare in pochi secondi, diciamo, quello che è la grande ricchezza e la varietà di questo patrimonio naturale costituito dalle acque minerali. Possiamo dire questo, che grosso modo le acque sono classificate dal punto di vista chimico in relazione al loro contenuto di sali minerali per litro, sì. Quello che viene definito il cosiddetto residuo fisso, e quindi che ci dice quanti grammi di minerali sono contenuti in un chilogrammo di acqua o in un litro d'acqua. Le acque possono essere da minimamente mineralizzate, quindi le famose acque oligominerali, che hanno un'azione ben nota sull'apparato digerente, in particolare sull'apparato urinario. Passiamo alle acque solfure, che sono caratterizzate da un contenuto di acido solfidico, quella sostanza, quel gas che dà quel caratteristico odore molto forte. Non tanto buono, diciamolo. Non tanto buono, ma che poi abituandosi diventa anche buono, perché hanno un'azione molto importante le acque solfure, sia sull'apparato respiratorio che sull'apparato osteoarticolare. Dove sono? Andiamo lungo lo stivale. Dove si trovano le acque solfure? Le acque solfure si trovano, sono abbastanza diffuse nel nostro paese. Se andiamo in Lombardia, sono note, posso fare nomi? Certo, perché noi siamo abituati a sentire Abano, Sirmione, Boario. Poi andiamo a acque di Sirmione, acque di Tabiano, acque anche, ci sono acque dalla parte del Piemonte, acque terme, c'è anche di Abano Terme, quindi sono acque legate prevalentemente a manifestazioni ex vulcaniche o paleovulcaniche prevalentemente. Poi se andiamo nel centro dell'Italia, anche se ci sono nella zona di Saturnia, nella zona di Grossetano, poi andiamo nel sud, quindi la zona di Ischia, del Napoletano, a sud ancora in Sicilia, a Cireale e Sciacca, quindi abbiamo una grande gamma di, se andiamo poi nella zona delle Puglie, abbiamo la Margherita di Torre Canne, quindi c'è tutta una varietà estremamente ricca di queste acque che sono polivalenti, come dicevo, sono un'azione su degli apparati importanti, apparato respiratorio, apparato osteoarticolare e sulla parte anche della pelle, quindi del campo dermatologico. Insomma, medicamentose. Esatto. Ci sono acque che sono di origine prettamente paleomarina, quindi derivano da antichi mari, quindi acque che non possono essere rinnovate dal ciclo meteorico, quindi sono un patrimonio importante, quello che veniva definito un po' il nostro petrolio, se vogliamo, e sono le acque sasso-bromoiodiche, ben note, quindi c'è la stazione di Sasso Maggiore prevalentemente, oppure un'acqua sasso-bromoiodica per eccellenza. Poi ci sono altre acque che sono mescolate a dei bicarbonati o a dei solfati, quindi che sono diffuse in diverse parti del nostro paese, anche nel centro dell'Italia, e meno nel sud, ma soprattutto nella zona dell'Emilia-Romagna sono molto diffuse. Con quali indicazioni, professore? Con indicazioni soprattutto sull'apparato osteoarticolare e l'apparato respiratorio. Sono acque che chiaramente non possono essere assunte per uso, per bibita, chiaramente, al contrario delle oligominerali, per esempio, che hanno un'indicazione per eccellenza, oppure come le acque solfate, che hanno un altro ione, questo ione SO4, che non ha quelle caratteristiche di di odore, come possa avere le acque solfuree, che però hanno anch'esse un'azione prevalentemente sia sull'apparato osteoarticolare, ma soprattutto, se assunte per bibita, sì, hanno un'azione importante anche sulle malattie sul fegato. Sullo ione SO4 proprio è uno ione che è molto elettivo proprio per la cellula del fegato, quindi sono importanti anche queste. Insomma, anche abbiamo veramente un patrimonio di acque da cui poter... Le acque carboniche che sono importanti anche per il discorso del cardiovascolare, quindi esiti da flebopatie, quindi per, sono meno diffuse queste, però sono soprattutto le acque del Trentino, le acque del Trentino che sono molto ricche di CO2. Le carboniche sono preziose. Sono preziose, come anche le arsenicali ferruginose, quindi non facciamoci spaventare dalla parola arsenico, ma c'è una stazione termale di Levico Terme, dove addirittura venivano i tempi dell'imperatrice Sissi, venivano tutta la corte di Siena. Hai capito, la bella Sissi. Quindi è una gamma importante, molto importante, che viene utilizzata con diverse metodologie, metodologie con balneoterapia, con inalazioni, associata a fanghi, inalazioni, perché non dimentichiamoci che tutte queste sono dei trattamenti medici, quindi devono essere indicati e seguiti da medici specializzanti e dal proprio medico, specialisti, e da medici e dal proprio medico di famiglia, che indirizza già a una linea. Attenzione, questa è già una prima indicazione. Dopo la divisione e il raggruppamento delle acque, e abbiamo sottolineato insieme al professor Solimene la varietà delle acque, un'indicazione precisa: sono trattamenti medici, devono essere consigliati quindi dal nostro medico curante. Professor Allegra, io resterei in acqua con lei. Che relazione c'è tra l'acqua termale e la salute dell'apparato respiratorio? Parliamo delle evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche riguardano quasi esclusivamente una grandissima malattia, tra le più diffuse tra tutte, sì, che si chiama broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sì, abbreviata anche con BPCO, vero? BPCO, certo. Malattia che riguarda in Italia non meno di 4 milioni di persone. Quindi è veramente un importantissimo capitolo della nostra patologia. Questa malattia trova un'indicazione pressoché assoluta, o meglio, le acque trovano in questa malattia un'indicazione pressoché assoluta, ovviamente insieme ad altri farmaci, come ha detto Solimene, bisogna considerare le acque come farmaci, e in questo caso lo sono, un'indicazione pressoché assoluta, dicevo, nelle acque cosiddette sulfuree, anche in altre, ma le acque sulfuree sono, secondo la mia esperienza, secondo quanto risulta dalla letteratura, le acque più indicate per curare questa malattia, in particolare quando questa si accompagna a quote catarrali particolarmente imponenti e anche tenaci, diciamo così, perché il rondolfo in quella forma di anidride solforosa è terapeutico, in modo importante è mucolitico anche, quindi sono acque che esercitano anche questa azione locale di rendere le secrezioni più fluide e quindi più eliminabili. Allora, prima di andare ai mercati, professor Gironomoni, rapidamente, quali sono i trattamenti più indicati per la patologia della pelle là dove c'è un'evidenza scientifica? Inizierei ad occuparmi, come ha fatto lei in apertura, di malattie croniche recidivante e cosa è giusto aspettarsi e cosa invece è bene sapere subito. Proprio un flash, stessa domanda girerei poi al professor Albisetti, in modo che i nostri ascoltatori da casa abbiano una prima panoramica del problema. Professor Gironomoni. L'evidenza e l'indicazione riguarda le due principali malattie infiammatorie croniche della pelle, che sono la psoriasi, sì, e gli eczemi, soprattutto la dermatite atopica. Su queste esistono evidenze significative che certe acque, soprattutto io mi sto riferendo all'acqua delle Terme di Comano, perché è quella che ha più tradizione, più studi riguardo a questo argomento, sì, Terme di Comano in Trentino, ci sono evidenze sia dal punto di laboratorio che cliniche che è di efficacia nella terapia di queste malattie, sia nella terapia che nel mantenimento della remissione, e quindi si propongono secondo me in qualche modo interessanti, soprattutto per anche intervallarle poi con le cure normali, farmacologiche tradizionali. Quindi un aiuto, si integrano e c'è una sinergia anche con i farmaci, la natura, i farmaci collaborano. Professor Albisetti, si dice terme, si pensa ai dolori articolari, detta così sembra un'alchimia, ma non è magia, funziona. Noi non vogliamo però solamente occuparci di artrosi, vogliamo occuparci anche di riabilitazione. A chi si rivolgerebbe lei oggi per avere una domanda all'824-00024, qual è il suo paziente ideale? Ma il paziente ideale in questo momento è il paziente che ha bisogno di una riabilitazione osteoarticolare completa. Infatti sono diversi i lavori che ci sono e sono stati fatti sull'azione dell'ambiente termale, della riabilitazione in ambiente termale. Io penso che questo sia dovuto a un sommarso di diversi fattori, cioè l'uso dell'acqua, sì, l'uso dei fanghi, cioè sì, la fango-balneoterapia, comunemente chiamata, il movimento in acqua, il contenuto dell'acqua stessa, sì, l'azione dei massaggi, il maggior tempo per la presa di coscienza che noi abbiamo del nostro corpo. E in più quello che è stato detto prima e che io ribadisco, l'intervento riabilitativo del personale sanitario ormai presente nelle terme, cioè dei fisioterapisti, dei medici, l'azione diciamo così termale sotto un aspetto medico è un aspetto sanitario, è molto importante. Quindi l'associazione, se vogliamo così dire, di tutti questi interventi sommati tra loro amplificano l'azione sull'apparato osseo articolare, quindi il movimento in acqua ma con l'azione dell'acqua. 800 24 00 24, avete tutte adesso le indicazioni per comporre il nostro numero verde, per approfittare della presenza tra di noi dei nostri esperti, quindi dolori articolari e riabilitazione, pelle, apparato respiratorio, sotto la guida del professor Solimene, che ci fa da cicerone, posso dire anche da sommelier delle acque termali, professor Solimene? Grazie, sì. E siamo tornati insieme, Terme per la salute, per il nostro benessere, per continuare a stare bene o per recuperare un po' di salute. In linea con noi il professor Umberto Solimene, il professor Albisetti, il professor Girolomoni e il professor Allegra. Oggi ci occupiamo di pelle, riabilitazione, dolori articolari, arrivano molti messaggi e ci occupiamo naturalmente anche dell'apparato respiratorio. Subito le vostre domande. Luciano da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Ah, signor Trento, buongiorno, sono Luciano da Brescia. Benvenuto. Allora, io sono affetto da 8 anni da psoriasi. Sì. E l'anno scorso, visto che mia moglie andava a fare le cure per la sinusite a Sirmione, ho voluto provare anch'io a fare dei bagni, insomma, ecco. Per più che altro, perché la mia psoriasi, in quanto il tronco c'è poca roba, più che altro sotto le unghie delle mani. Sì. E dai piedi. Sì. Allora io volevo sapere appunto dai suoi ospiti, dermatologo appunto, se era un discorso valido fare dei bagni. Io ho fatto 12 bagni l'anno scorso a immersione un quarto d'ora proprio nell'acqua, se ci sono dei buoni risultati o se invece... Lei come si è trovato? Ma io sono ricordato, io mi sono trovato bene, nel senso che mi rilassava anche quello che era il bagno. Sì. Dopo, essendo il primo anno, sinceramente non le saprei dire se... Chiediamo aiuto al professor Girolomoni, ma se mi permette Luciano, lei ha parlato di unghie e io so che i dermatologi, soprattutto quando c'è una psoriasi, la persona soffre di psoriasi, alle unghie stanno particolarmente attenti. Professor Girolomoni. Sì, le unghie è una sede a volte importante, ecco, anche da un punto di vista dell'impatto diciamo psicologico relazionale, sì, in qualche caso, perché uno con le unghie alterate non si sente in ordine, non si sente attraente, a volte impattano abbastanza sulla qualità della vita. E poi sono un'indicazione importante, vero, anche per l'artrite psoriasica? Qualche volta sono un'indicazione per l'artrite, sì, esistono degli studi che dicono che è un fattore di rischio, un elemento predittivo dello sviluppo dell'artrite, però... un elemento predittivo, non vorrei spaventare. Sì, non dobbiamo fare diagnosi telefoniche, ma volevo focalizzarmi un attimo sulle unghie e poi passare alla domanda del nostro ascoltatore che dice: ma fanno bene? Lei aveva già anticipato in parte una risposta, ma per essere più precisi? La precisione è complicata, però perché la precisione non è di questa faccia della vita. Le terme fanno bene, certo che da sole non sono spesso in grado di risolvere il problema. Però possono rappresentare un aiuto. Nel caso specifico delle unghie forse sono meno indicate che in altre sedi. Nella psoriasi della pelle aiutano di più, sì, in generale. Noi abbiamo fatto proprio degli studi su una casistica anche molto ampia, di circa 400 pazienti, quindi non una casistica banale, dove abbiamo visto che c'è effettivamente un'efficacia delle terme. L'efficacia non è paragonabile a quella dei farmaci, a mio parere, cioè sono meno efficaci dei farmaci. Esistono però da dire anche in più che alcune terme, come quella di Comano Sempre, oltre al bagno termale, sì, offrono la possibilità di fare in sede la fototerapia, sì, con raggi ultravioletti diciamo selezionati, medicati di UVB a banda stretta per intenderci, che sono quelli che si usano nella psoriasi, sì, e quindi in quel caso si può unire il bagno alla fototerapia e quindi si ottiene un risultato migliore, certo, più persistente nel tempo, ecco. Professor Solimene, il professor Girolomoni parlava di terme particolari, delle terme di Comano. Che acqua hanno e dove si ritrova oltre che a Comano e nel lungo lo stivale? Sono nel Trentino, guardi, è sempre stato un caso proprio molto particolare quello, perché sono acque oligominerali, sì? Quindi prettamente con, come dice il termine, poco ricche di minerali, sì? No? Quindi hanno... Quindi non si capiva fino a poco tempo fa, diciamo, ma anche ancora tuttora, il meccanismo d'azione, il perché queste acque, che praticamente hanno un'azione specifica, soprattutto sul apparato urinario, potessero anche avere. Si deve proprio ad un illustre, un dermatologo, proprio il professor Cristofolini, che io qui ricordo, proprio che è stato uno degli iniziatori della classificazione, sì, a terme di Comano, proprio come indicazione della psoriasi, a iniziare a fare degli studi clinici. Sì. In effetti l'azione di quest'acqua io penso che sia legata anche a una presenza anche di silicio, forse, sì, di silicio, di silicati, che danno questa azione anche astringente, e questa azione detergente. Ma le troviamo solo lì le acque con queste caratteristiche? Acque, no, forse Comano è quella che ha più approfondito e sta, sì, approfondendo questo settore, anzi giustamente, come diceva il professor Girolomoni, il discorso di associare, non è mai il bagno di per sé stesso, che andrebbe fatti più bagni al giorno. Sì. Io sono tornato adesso dall'Islanda, dove c'è un grande... ci sono dei grandissimi centri importanti, sì, dove proprio delle cliniche per la cura della psoriasi, eh, utilizzano questi, le acque che vengono sorgono intorno a questi impianti geotermici importantissimi, sono ricchissime di silicati, sì, di carbonati, di silicio, eccetera, che danno, hanno questa azione, però i bagni vengono fatti più volte al giorno. Quindi più volte al giorno, ma io non ho capito, delle acque simil Comano, dove le trovo? Se le io sono più comoda, abito in centro Italia. Per ora, con una specificità proprio del campo della psoriasi, non esistono stazioni termali specifiche del campo della psoriasi, mi pare, quindi devo dire le acque che ci faceva cenno alla persona, le acque solfure sono ottime appunto per la cute, sì, per il trattamento della cute, però non esiste ancora una stazione termale dedicata come si è voluta dedicare Comano alla cura della psoriasi, anche perché oggi c'è la tendenza a non avere troppe malato, diciamo, alle terme, oggi c'è la tendenza più di avere più sul benessere, ma questo è un certo, ma questo è poi infatti da luoghi di cura a volte un po' tristanzuoli a luoghi di benessere, tanto che si parla spesso di beauty farm. Andrei a Taranto perché c'è Antonio che ci aspetta. Buongiorno Antonio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì, Antonio non è alle terme con tutto quel rumore. Dov'è Antonio? No, sono in autostrada, mi sto fermando. Bravo. Senta, no, volevo solo porre un quesito abbastanza veloce. Sì. Io per la prima volta a 60 anni sto avendo problemi di sinusite sì, frontale, sì, non so adesso come definirla. Ho fatto 3 cicli e adesso sto facendo praticamente il terzo ciclo di antibiotico, sì, per inalazione, essenzialmente con il Lincocin, credo che si chiami. Va bene. E niente, ho fatto questi 3 cicli per 15 giorni l'uno e niente. Ora per quest'estate c'è chi mi consiglia le terme, dice devi fare le terme perché così ti sistemi un attimino la situazione. C'è invece un carissimo amico medico, pneumologo, che mi ha detto, dice no, vai al mare, prendi sole e vai sott'acqua e ti pulisci il naso con l'acqua salata. E quindi due teorie assolutamente diverse. Professor Allegra, lei dove lo manderebbe Antonio da Taranto per la sua sinusite? Alle terme o al mare a fare immersioni? A curarsi. E quindi in entrambi i posti c'è una logica. Alle terme la logica è fluidificare le secrezioni, alle terme, ripeto, con acque sulfuree, sì, che contengono idrogeno solforato. Le secrezioni troppo dense non escono facilmente dagli sbocchi dei seni frontali, mascellari, etmoidali, e quindi bisogna fluidificarle, rendere più solubili, meno mucose, meno dense, e farle uscire. Secondo, questo si può fare sia diluendole, l'acqua marina le diluisce, sia come dire, interrompendo i cosiddetti ponti di sulfurici attraverso le acque solforate, sulfuree per l'esattezza. E poi Antonio ha, gli è stato detto di fare antibiotici, il che vuol dire che il curante ha visto un'infezione alla base di questa sinusite. Sì. Ora, l'infezione non c'è dubbio che si cura con gli antibatterici, se è batterica, soltanto che lui ha fatto un antibiotico di cui ha fatto il nome, ma io credo che tutto questo vada preceduto dalla identificazione del ceppo batterico responsabile della sua stabile sinusite cronica, perché c'è un ceppo batterico colonizzante responsabile del ripetersi, del mantenersi di questa forma, di questa affezione, e la scelta dell'antibiotico è subordinata alla identificazione del germe. In altre parole, si spara sul nemico con armi appropriate: la cerbottana per gli indios e il bazooka per i missili intercontinentali. Adesso noi andiamo sulle strade e poi sentiremo dal professor Albisetti. Arrivano tanti sms, molte telefonate che vogliono capire come e perché, andando alle terme, in qualche modo si può ritornare in gamba, quindi recuperare, eseguire un trattamento di riabilitazione, quanto deve durare e qual è la sua efficacia. Professor Albisetti, terme per curare la cervicale, sì o no, quali, acque o fanghi? Il fango è forse una delle terapie più antiche che si conoscono, fondamentalmente. Infatti l'azione del fango maturo in ambiente termale, poi penso che il professor Solimene ci potrà spiegare la differenza tra il fango maturo e il fango non maturo, sì. Penso sia una cosa molto importante ed è un po' la chiave di volta, penso, dell'approccio terapeutico. Dicevo, quindi il fango maturo ha da una parte l'azione dei microelementi insiti nello stesso, e dall'altra parte provoca sicuramente una vasodilatazione dei capillari del microcircolo periferico, e questo porta alla catena di eventi, no? Minor dolori, maggior movimento, decontrazione o decontrattura muscolare e così via. Questo per quanto riguarda il discorso, diciamo così, sulla, mi permetta il termine, il grippaggio. Bravo, del mi piace, no? Il grippaggio, perché ci sentiamo belli ingrippati. Ingrippati si vuol dire così nello slang. Dall'altra parte invece, per quanto riguarda la riabilitazione, non so, un post intervento, facciamo un classico esempio, la ricostruzione del legamento crociato anteriore nel ginocchio. Bravo, perché ho proprio l'SMS che mi chiede questo, magnifico. Ecco, pensiamo all'ambiente termale, cosa può dare? Allora, l'idrochinesi terapia, cioè la rieducazione in piscina. Sì. Siamo a galla, abbiamo un peso diminuito, il nostro peso corporeo, nell'acqua. L'escursione è un'escursione, diciamo così, graduale, perché abbiamo una resistenza dell'acqua che è una resistenza quasi elastica, una resistenza progressiva, una temperatura idonea, l'azione, ripeto ancora, del contenuto termale, e perché no, si sta anche bene fondamentalmente. Questo certo. È empaticamente ti incentiva l'approccio riabilitativo. Da un'altra parte, se seguiti da personale sanitario idoneo, cosa vogliamo di più? Una bellezza. Professor Solimene, rapidamente, fango maturo e non maturo, qual è la differenza e quali vengono utilizzati? Il fango maturo è un fango, che cos'è innanzitutto? È una miscela tra un'argilla e dell'acqua. Quando questa miscela viene fatta lavorare in un modo naturale, cioè viene depositata in opportuni contenitori per circa, se non meno di 6 mesi, avvengono degli interscambi tra i sali contenuti, gli ioni contenuti nell'argilla e gli ioni contenuti nell'acqua, per cui si arriva ad una propria composizione chimica, non dico completamente diversa, ma molto più complessa. Diventa un po' medicamentoso. Esatto. In questo caso il fango applicato appunto con le opportune indicazioni, quindi a temperatura intorno ai 40-42 gradi e lasciato in luoghi sulle posizioni del corpo indicate dal medico e tutto, quindi ha un'azione triplice, un'azione legata alla temperatura e un'azione legata alla composizione chimica e un'azione anche meccanica legata alla composizione del fango, quindi che deve essere simile ad una pasta cosmetica, quindi ha un'azione anche, se vogliamo, di stimolo della circolazione superficiale, quindi è un fango, il fango. Ma io direi una cosa, vorrei dire questo, una cosa. Dica. Se mi consente. La terapia termale, la medicina termale è una medicina complessa, quindi non dobbiamo pensare solo di dire io vado a fare il bagno. Il trattamento, il percorso termale è un percorso che richiede sì un bagno, richiede poi dei massaggi, richiede poi tutta una serie di altri tipi di trattamenti, compreso anche l'imparare a respirare nel caso che non abbia problemi respiratori, compreso anche tutta una parte anche dietetica, cioè tutto un complesso di trattamenti integrati tra loro che danno ovviamente un beneficio indiscutibile. Quindi questo. Diversi trattamenti che si integrano per farci recuperare forma, salute e benessere. Io saluto intanto i miei ospiti ringraziandoli per essere stati con noi, ci avete dato delle indicazioni importanti, grazie al professor Soliman, al professor Albisetti, al professor Girolomoni, al professor Allegra. Buona giornata, un coro di buongiorno, magnifico, grazie a voi. E noi oggi avevamo un appuntamento, se ricordate, con la dottoressa Maria Luisa Muggias, che è tornata. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È ginecologa all'ospedale Buzzi di Milano, con lei vorremmo parlare di mamme che dopo il parto vogliono tornare in forma. Io specifico le mamme normali, le mamme come noi, non guardiamo quelle sui giornali che partoriscono e poi sono in due pezzi con un ventre piattissimo, la gamba disegnata. Io mi auguro che sia solo Photoshop. Dottoressa Muggiasca, invece noi iniziamo ad occuparci delle mamme che hanno partorito con parto naturale. Spesso i muscoli dell'addome dopo il parto, e non subito dopo ma anche a distanza di mesi, sembrano svenuti, non sono più tonici. Che cosa si fa? Quando si può iniziare a un programma di remise en forme, e soprattutto quali sono gli esercizi? Dunque, innanzitutto ripeto buongiorno a tutti e subito una precisazione: le mamme che hanno appena partorito non devono assolutamente lasciarsi prendere dallo sconforto, perché in poco tempo ci si ritrova comunque con la forma di prima del parto, anche se magari abbiamo un po' ceduto durante la gravidanza nell'aumento di peso. L'importante è essere costanti, essere speranzose, sì. Non abbandonare appunto la speranza e sapere che si rientra in forma, si raggiunge il peso forma con degli esercizi anche molto semplici, avendo assolutamente calma e non facendo delle diete assolutamente bizzarre che possono invece portare un danno alla salute sia fisica che mentale della mamma che ha appena partorito. Quindi nei primi giorni, subito dopo la dimissione dall'ospedale, la mamma può già fare degli esercizi molto semplici anche mentre a letto. Quindi basta magari essere distese sulla schiena e avvicinare la coscia verso la nostra pancia e poi tirare la gamba verso l'alto. Quindi o fare un po' di bicicletta proprio con sdraiandosi sul letto oppure sul pavimento. Si può così sfruttare il momento in cui per esempio il bambino sta dormendo, bastano davvero 5-10 minuti al giorno, in modo tale che i nostri muscoli soprattutto dell'addome si ripiglino un po', a risvegliarsi, esatto, e quindi a riacquisire un tono che hanno normalmente e naturalmente perso durante i 9 mesi. Dopo questi primi 15 giorni è possibile invece fare degli esercizi un pochettino più complessi, un pochettino magari più impegnativi, però ripeto, sempre con molta molta calma. Anche poi spingere la carrozzina, portare il pupo fuori fare delle lunghe passeggiate, sembra banale, proprio il consiglio della nonna, ma in effetti funziona. Allungare il tempo della passeggiata approfittando della bella stagione, sembra... Le mamme che partoriscono adesso sono più fortunate perché vanno incontro all'estate. Infatti. E questo semplice movimento quotidiano può aiutare. Ecco, molto. Ma quello che mi importa sottolineare, dottoressa Muggiasca, è no alle diete drastiche. No, si può iniziare già subito dai primi giorni dopo il parto, per chi ha partorito con parto naturale, a rimettere un po' in moto la muscolatura, e gli esercizi molto semplici con gradualità, come dice sempre il nostro dottor Confalonieri. Per le mamme invece, in 30 secondi, che hanno partorito con il parto cesareo, i tempi sono un pochino più lunghi, vero dottoressa Muggiasca? Esatto, i tempi sono un pochino più lunghi perché dobbiamo tenere presente che non c'è soltanto la cicatrice cutanea, ma c'è la cicatrice anche a livello delle fasce, a livello dei muscoli, a livello dell'utero, quindi bisogna avere un attimo più di pazienza. Sicuramente una cosa molto importante per le mamme che hanno partorito spontaneamente, ma a maggior ragione per le mamme che hanno subito un taglio cesareo, è la corretta postura. Quindi magari anche aiutarsi proprio per cercare di sollevare un po' meglio la schiena e quindi non avere quel fastidioso mal di schiena che a termine della giornata ci fa sicuramente stare peggio, o con qualche guaina, o altrimenti anche qui con qualche esercizio, basta mettersi a terra e fare un po' al movimento del gatto, la gobba del gatto. Ecco, allungamento e stretching, però con grande cautela. Dottoressa Muggiasca, la musica mi dice che devo salutarla. A presto, buona giornata, un saluto alle sue mamme. Un abbraccio a tutti, grazie mille. Grazie, noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, buonissima giornata.